Capitolo 21. Zia Polly ritrova la tenerezza. Il cielo si stava oscurando minacciosamente, come per l'approssimarsi di un temporale, mentre Pollyanna si affrettava giù per la discesa dopo aver lasciato la casa di John Pendleton. A metà strada incontrò Nancy con l'ombrello, ma nel frattempo il temporale si era allontanato e la pioggia non sembrava più così imminente. All'aria di spostarsi verso nord, disse Nancy osservando il cielo con occhio esperto. Ne ero sicura anche prima, ma la signorina Polly ha voluto assolutamente che ti venissi incontro. Era preoccupata per te. Davvero? Chiese Pollyanna distratta osservando a sua volta il cielo. Nancy fece una piccola smorfia. Non sembri aver ascoltato quello che ho detto, disse un po' risentita. Ho detto che tua zia era preoccupata per te. Oh! Sospirò Pollyanna ricordando improvvisamente quello che avrebbe dovuto dire alla zia di lì a poco. Mi dispiace, non avevo intenzione di farla stare in pensiero. Io invece sono contenta, disse sorprendentemente Nancy. Sicuro, sono molto contenta. Contenta che zia Polly fosse preoccupata per me? Ma come, Nancy? Questo non è il modo di fare il gioco. Non è per queste cose che ci si deve rallegrare, obiettò Pollyanna. Ma io non intendevo fare il gioco, disse Nancy. Non ho certo pensato a quello. Non sembra proprio che tu ti renda conto di cosa significhi che tua zia Polly si sia preoccupata per te, capisci? Significa che è stata male, e di questo senz'altro mi rincresce, disse ancora Pollyanna. Che cos'altro può voler dire? Nancy fece un gesto di impazienza con la testa. Allora te lo dico io che cosa significa. Significa che finalmente sta diventando un po' più umana con la gente e non fa soltanto il suo dovere come ha sempre fatto in vita sua. Ma come, Nancy? Disse Pollyanna in tono di rimprovero. Zia Polly fa sempre il suo dovere. Per lei il dovere è legge. Senza volere, Pollyanna ripeté le stesse parole che John Pendleton aveva pronunciato mezz'ora prima. Nancy ridacchiò. Hai ragione, fa sempre il suo dovere, l'ha sempre fatto, credo, ma ora è un po' diversa da quando ci sei tu, voglio dire. L'espressione sul volto di Pollyanna cambiò, si era fatta molto pensierosa. Ecco, stavo proprio per farti una domanda, Nancy, disse. Pensi che zia Polly sia contenta di tenermi con sé? Pensi che le dispiacerebbe se non restassi più con lei? Nancy guardò fugacemente il volto serio di Pollyanna. Si era aspettata una domanda del genere da tanto tempo e l'aveva temuta. Si era sempre chiesta come avrebbe dovuto rispondere, come avrebbe potuto rispondere con sincerità, senza ferire la sensibilità di chi l'interrogava. Ma ora, di fronte a quelle supposizioni che erano diventate convinzione, confortate come erano dall'atteggiamento della signorina Polly di quel pomeriggio, Nancy fu felice di rispondere. Era sicura che in perfetta coscienza avrebbe potuto quel giorno tranquillizzare una volta per tutte il cuore assetato d'amore della bambina. Contenta di tenerti con sé, che si rincrescerebbe se non fossi più qui? Protestò Nancy. Come se non te l'avessi appena detto. Mi avrebbe forse mandata a cercarti con l'ombrello se non le fosse importato niente di te? Mi avrebbe forse fatto trasportare tutte le tue cose al piano di sotto, dandoti la bella stanza che desideravi? Ma che domande sono, Pollyanna, quando penso che all'inizio non ne voleva sapere di... Un provvidenziale colpo di tosse impedì a Nancy di proseguire. E ci sono tanti altri segni che, è vero, non si possono toccare con le mani, continuò Nancy ormai senza fiato, ma che dimostrano come tu sia riuscita ad addolcirla, come quella storia del gatto e del cane. Per esempio, il modo con cui ora si rivolge a me e... Oh, tante altre cose. Certo, Pollyanna, non si può proprio dire quanto le mancheresti se non stessi più con lei, concluse Nancy con crescente enfasi, volta anche a nascondere l'infelice ammissione che stava per fare qualche attimo prima. Ma anche dopo simili dichiarazioni non era preparata all'improvvisa gioia che illuminò il volto di Pollyanna. Oh, Nancy, Nancy, come sono felice, felice, felice! Non puoi immaginare quello che provo per il fatto che zia Polly sia contenta di tenermi con sé. È impensabile che io la lasci adesso, pensava Pollyanna mentre saliva in camera sua un poco più tardi. Per quello che mi riguarda, ho sempre desiderato vivere con lei, ma non mi ero mai resa conto di quanto mi importasse che anche lei fosse contenta di vivere con me. Comunicare a John Pendleton la sua decisione non sarebbe stato facile, Pollyanna lo sapeva e quel pensiero la preoccupava. Era molto affezionata a John Pendleton, però Provava molta pena per lui, anche perché era stato lui a dirle quanto fosse infelice. Lo compiangeva anche per la sua lunga vita solitaria e le rincresceva ancora di più che fosse stata sua madre la causa di quell'esistenza tanto infelice. Cercò di immaginare come sarebbe ripiombata nella tristezza la grande casa di pietra grigia dopo che gli aveva ripreso, una volta guarito, la sua solita vita. Le stanze tenute nell'oscurità, i pavimenti trascurati, la scrivania ingombra di carte in disordine, ma soprattutto le faceva male il pensiero della sua solitudine. Desiderava con tutto il cuore che lui potesse trovare da qualche parte qualcuno che. A quel punto Pollyanna provò un tuffo al cuore al pensiero che era balenato nella sua mente. Così, non appena le fu possibile, si precipitò a Pendleton Hill. Come tante altre volte si ritrovò nella grande e cupa biblioteca accanto a John Pendleton, che seduto vicino a lei teneva le lunghe mani scarne appoggiate stancamente sui braccioli della poltrona e il piccolo cane fedele ai suoi piedi. Allora, Pollyanna, sei qui per dirmi che farai per sempre con me il gioco della contentezza? Chiese con molto garbo. Oh sì, esclamò Pollyanna, ho pensato alla più straordinaria contentezza per lei e con te? Chiese John Pendleton assumendo un'espressione dura agli angoli della bocca. No, ma Pollyanna, sei venuta a dirmi di no? La interruppe con voce rotta dall'emozione. Io sono costretta, signor Pendleton, sul serio, zia Polly ha rifiutato? Io non gliel'ho chiesto, disse la bambina confusa, quasi balbettando. Pollyanna. Pollyanna abbassò gli occhi. Non poteva sopportare di incontrare lo sguardo offeso e addolorato del suo amico. E così non gliel'hai nemmeno chiesto. Non ho potuto, signor Pendleton, davvero, farfugliò Pollyanna. Vede, l'ho scoperto senza bisogno di chiedere. Zia Polly è contenta di tenermi con sé e anche io desidero stare con lei, ammise Pollyanna coraggiosamente. Lei non può sapere come è stata buona con me e penso anche a volte che incominci a essere contenta di una quantità di cose e sa bene quanto una volta fosse diversa. L'ha detto anche lei. Oh, signor Pendleton, come posso lasciare zia Polly proprio adesso? Seguì un lungo silenzio, rotto soltanto dal crepitio della legna che bruciava nel caminetto. Alla fine, tuttavia, il signor Pendleton parlò. Capisco. Pollyanna, non puoi lasciarla proprio adesso, disse. Non te lo chiederò più. L'ultima parola fu pronunciata così piano da riuscire appena percettibile, ma Pollyanna l'udì. Ma non sa ancora tutto il resto, disse la bimba ritrovando il suo solito coraggio. Ho trovato la cosa più bella che lei possa fare, davvero. Non credo, Pollyanna. Sì, signor Pendleton, l'ha detto lei, che soltanto il cuore e la mente di una donna o la presenza di un bambino possono portare la vita in una casa. E io so dove trovare un bambino, dal momento che non posso essere io. Come se tu fossi sostituibile, disse una voce piena di risentimento. Certo che lo sono, quando saprà di chi si tratta. Lei è così generoso. Pensi ai prismi di cristallo, alla moneta d'oro e a tutti i soldi che ha messo da parte per le missioni e. Pollyanna, la interruppe Pendleton furioso. Una volta per tutte, finiscila con queste assurdità. Ho già cercato di dirtelo almeno una dozzina di volte. Non intendo risparmiare i soldi e in vita mia non ho mai mandato un centesimo alle missioni, se vuoi saperlo. Dopo questo sfogo, guardò Pollyanna con occhi di sfida, aspettandosi di ritorno un'occhiata piena di dolore e disapprovazione, ma con sua grande sorpresa, negli occhi della bambina non c'era né dolore né disapprovazione, brillavano invece di gioia per la sorpresa. Come sono contenta! Disse battendo le mani, cioè si corresse arrossendo. No, non volevo dire contenta che lei non abbia mai pensato alle missioni, volevo solo dire che sono contenta che non le interessi un bambino dell'India, perché già tanto quelli a parole li vogliono tutti. Sono contenta che preferisca invece prendere Jimmy Bean, perché sono sicura che lei lo prenderà. Prenderò chi? Jimmy Bean. Sarà lui a darle quella presenza di cui c'è tanto bisogno nella sua casa. La settimana scorsa ho dovuto dirgli che anche le signore dell'assistenza della città da dove venivo io nell'ovest non l'avrebbero accolto e ci è rimasto così male. Ma ora, quando gli darò la notizia, ne sarà felice. Ne sarà felice? Ebbene, non lo sarò io, disse Pendleton con decisione. Pollyanna, tutto questo è pura follia. Non vorrà mica dire che non intende prenderlo. Intendo dire proprio questo. Ma le darà quell'affetto di cui ha tanto bisogno? Insistette Pollyanna sul punto di scoppiare in lacrime. Non sarà più così solo con Jimmy Bean vicino. Non ne dubito, ma preferisco la mia solitudine, tagliò corto Pendleton. Fu allora che a Pollyanna venne in mente un certo discorso fatto da Nancy parecchie settimane prima e fissando John Pendleton negli occhi disse: Io credo che un bel ragazzino in carne e ossa sarebbe molto meglio di quell'inutile scheletro che lei tiene nascosto da qualche parte. Di questo non c'è dubbio. Scheletro? Sì, Nancy mi ha detto che ne ha nascosto uno in un armadio. Cosa? Dopo un attimo di perplessità, improvvisamente Pendleton gettò all'indietro il capo e scoppiò in una risata. Rideva così di gusto che Pollyanna, per reazione nervosa, cominciò a piangere. Quando Pendleton se ne accorse, cessò subito di ridere. Si fece molto serio e disse: Pollyanna, penso che tu abbia ragione, molta di più di quello che tu stessa credi, disse piano. Riconosco anch'io che un bel ragazzino in carne e ossa sarebbe 100 volte meglio del mio scheletro nell'armadio. Il fatto è che non siamo sempre disposti a fare il cambio, a fare chiarezza dentro di noi. Preferiamo mantenere le nostre zone d'ombra, i nostri scheletri. Comunque, parlami un po' di più di questo ragazzo. Pollyanna allora gli raccontò, per filo e per segno, tutta la storia del piccolo Jimmy. Forse nell'aria c'era già un alone di serenità, o forse la commovente storia di Jimmy Bean, raccontata con tanta intensità dalla bambina, toccò il cuore già stranamente intenerito di John Pendleton. Comunque, quando Pollyanna quella sera se ne andò a casa, aveva l'incarico di invitare Jimmy ad andare con lei il pomeriggio del sabato seguente nella casa di Pendleton Hill. Sono davvero contenta e sono anche sicura che Jim le piacerà, concluse Pollyanna salutando il suo amico. Desidero tanto che Jimmy abbia una casa e qualcuno che gli voglia bene. Capitolo 22. Le parole della gioia. Lo stesso pomeriggio in cui Pollyanna era stata da John Pendleton a perorare la causa di Jimmy Bean, il reverendo Ford era salito su per la collina e aveva raggiunto Pendleton Woods, sperando in cuor suo che la bellezza e il silenzio del posto avrebbero placato il tumulto del suo animo. Il reverendo era molto preoccupato. Già da qualche tempo la situazione della parrocchia che guidava era peggiorata in modo preoccupante, a un punto tale che doveva fronteggiare ormai soltanto scandali, maldicenze e litigi. Aveva cercato di rimproverare, di correggere, di esortare o anche semplicemente di ignorare, a seconda dei casi, e soprattutto aveva sempre e nonostante tutto pregato con fiducia e sperato nell'aiuto di Dio, ma quel giorno era costretto ad ammettere con tristezza che la situazione non era per niente migliorata, anzi era peggiorata. Due dei suoi diaconi erano ai ferri corti per una sciocchezza che soltanto i continui mugugni avevano poi fatto sembrare un dissidio serio. Tre delle più efficienti signore dell'assistenza avevano dato le dimissioni dal sodalizio per colpa di pettegolezzi che avevano finito per montare un vero scandalo. Il coro si era spaccato in due per divergenze sulle parti da assegnare ai solisti. Perfino nella scuola di catechismo c'erano malumori conseguenti alle dimissioni del direttore e di due insegnanti. Quella era appunto stata l'ultima goccia che aveva mandato il povero reverendo a cercare un po' di pace a Pendleton Woods. Sotto il verde riposante degli alberi poteva guardare in faccia la realtà. Secondo lui la crisi aveva raggiunto un livello critico. Qualcosa andava fatto e subito. L'intera attività della parrocchia era un punto morto. Le funzioni domenicali, gli incontri di preghiera, le iniziative per le missioni, perfino le feste di beneficenza erano sempre meno frequentati. Restavano, è vero, alcune persone coscienziose che operavano in prima linea, ma erano sempre sotto il tiro delle malelingue che evidentemente non avevano altro da fare che giudicare secondo le apparenze. Per questo il reverendo Ford si rendeva conto molto bene di quanto lui stesso, il ministro di Dio, la Chiesa e tutta la città ne soffrissero. E ne avrebbero dovuto soffrire ancora di più. Ecco perché non poteva non agire. Ma che cosa doveva fare? Lentamente il reverendo estrasse dalla tasca gli appunti che aveva buttato giù per il sermone della domenica successiva, si concentrò su quelle riflessioni e il suo volto prese un'espressione sempre più severa via via che rileggeva quei passi della Bibbia che pensava di dover citare. Guai a voi, farisei, che pagate la decima della menta, della rute, di ogni erbaggio e poi trasgredite la giustizia e l'amore di Dio. Queste cose bisognava curare senza trascurare le altre. Guai a voi, farisei, che avete cari i primi posti nelle sinagoghe e i saluti nelle piazze. Guai a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito. Erano parole dure. Nel silenzio del bosco, simile a quello della sua chiesa, la voce del reverendo risuonava solenne. Perfino gli uccelli e gli scoiattoli sembravano ammutoliti, in segno di rispetto, e il pastore si rendeva conto di quale effetto avrebbero potuto avere quelle parole la domenica successiva, quando le avrebbe pronunciate davanti alla sua gente. La sua gente. Sì, proprio perché era la sua gente, come avrebbe potuto rivolgerle quelle parole dure, avrebbe osato? Quelle parole, anche senza un suo commento, erano già una denuncia terribile. Egli aveva pregato, aveva tanto pregato per ottenere aiuto e forza nel suo impegno di pastore di anime e desiderava con tutto il cuore in quel momento di crisi prendere la decisione giusta, ma era poi proprio quella la decisione giusta. Il reverendo Ford piegò il foglio e se lo rimise in tasca, poi, con un sospiro, quasi un lamento, si lasciò cadere sull'erba accanto a un albero e si coprì il volto con le mani. Fu così che Pollyanna, di ritorno da Pendleton Hill, lo trovò. Con un piccolo grido di sorpresa, la bambina gli corse vicino. «Oh, signor Ford, non avrà una gamba rotta per caso?» domandò ansimando. Il pastore tolse le mani dagli occhi e la guardò, facendole un debole sorriso. «No, mia cara, no, davvero, sto soltanto riposando». Oh, meno male, disse Pollyanna rassicurata. Va tutto bene allora, vede, è stato così che ho trovato il signor Pendleton quando si è rotto la gamba. No, grazie al cielo, non ho rotto nulla, no, nulla che un dottore possa curare. Aveva pronunciato le ultime parole sottovoce, ma Pollyanna le udì ugualmente. Un lampo di comprensione le apparve sul volto e gli occhi la esprimevano tutta. Capisco quello che prova, c'è qualcosa che la fa soffrire. Tante volte vedevo papà proprio così, come lei. Penso che sia lo stesso per tutti i pastori. So bene quali pesi abbiano spesso da portare. Era pastore tuo padre, Pollyanna? Il reverendo Ford la guardò sorpreso. Sì, signore, non lo sapeva? Pensavo che lo sapessero tutti. Aveva sposato la sorella di zia Polly, che era mia madre. Capisco. Ma vedi, io non sono qui da molti anni e non conosco tutte le vicende delle famiglie. E sì, signore, voglio dire, no, signore, disse sorridendo la bambina. Ci fu una lunga pausa. Il pastore, seduto ai piedi dell'albero, sembrava aver dimenticato Pollyanna. Aveva preso un pezzo di carta dalla tasca e l'aveva aperto davanti a sé, ma non lo guardava. Fissava invece un poco più in là una foglia sul terreno e non era nemmeno una bella foglia, era una foglia morta. Pollyanna, osservandolo, provò una certa compassione per lui. È una bella giornata, disse. Per un po' non ci fu risposta. Poi il pastore sembrò scuotersi di colpo. Che cosa? Ah, sì, è proprio una bella giornata. E non fa nemmeno freddo, considerato che è già ottobre, disse Pollyanna, sempre più desiderosa di rompere il ghiaccio. Dal signor Pendleton c'era acceso il camino, anche se diceva che non ce n'era bisogno, giusto per l'allegria della fiamma, ha detto. Mi piace guardare la fiamma nel camino, e a lei piace? Non ci fu alcuna risposta questa volta, sebbene Pollyanna fosse rimasta in paziente attesa prima di fare un altro tentativo. Le piace fare il pastore? Il reverendo Ford la guardò sorpreso. Se mi piace? Ma che strana domanda, perché me lo chiedi, mia cara? Ma non so, forse per l'espressione che ha, mi fa pensare a quella che a volte aveva mio padre. Davvero? La voce del pastore era gentile, ma con gli occhi continuava a fissare quella foglia secca caduta in terra. Sì, anche a lui chiedevo, come ora ho chiesto a lei, se gli piaceva fare il pastore. Beh, e lui cosa ti rispondeva? Il reverendo Ford sorrise un po' tristemente. Oh, naturalmente, diceva che gli piaceva, ma aggiungeva anche che non avrebbe continuato a fare il pastore neanche per un giorno se non ci fossero state le parole della gioia. Le che cosa? Il reverendo Ford distolse gli occhi dalla foglia secca e si mise a osservare con curiosità il visetto allegro della bambina. Ma così le chiamava papà, disse Pollyanna ridendo. Naturalmente nella Bibbia non c'è proprio quel titolo. Ci sono però tutti quegli inizi come siate lieti nel Signore, oppure esultate di gioia, oppure esulti e gioisca chi ama, e tanti altri simili. Una volta che papà era particolarmente depresso, li ha contati, ne ha trovati 800. 800? Sì, tutti che esortavano a gioire, a essere contenti. Per quel motivo papà le chiamava le parole della gioia. Una strana espressione apparve sul volto del pastore. Aveva gli occhi sul foglio che teneva in mano. Guai a voi, farisei. E così tuo padre amava quelle parole di gioia, mormorò il pastore. Oh sì, disse Pollyanna con entusiasmo. La volta che aveva deciso di contarle si sentì subito meglio. E mi disse che se Dio ci aveva invitato per ben 800 volte a vivere nella gioia, voleva davvero che fossimo felici. Anzi, papà si rincresceva di non aver fatto molto prima quel conteggio, perché di fatto quelle parole erano state uno straordinario conforto per lui quando le cose non gli andavano per il verso giusto, per esempio quando le signore dell'assistenza litigavano. Insomma, voglio dire che non erano d'accordo su qualche decisione. Si corresse in fretta Pollyanna. E poi furono proprio quelle parole, papà diceva, a dargli l'idea del gioco della contentezza. Incominciò con me, con le stampelle. E che genere di gioco sarebbe? Chiese il pastore. Si tratta di trovare in ogni situazione un aspetto di cui essere contenti. E come ho detto, incominciò con me, con il pretesto delle stampelle. E ancora una volta Pollyanna raccontò quella storia a un uomo che aveva orecchie per intendere. Poco dopo Pollyanna e il pastore, mano nella mano, scendevano giù dalla collina. Il volto di Pollyanna era radioso, le piaceva parlare. C'erano talmente tante cose da raccontare riguardo al gioco, a suo padre e alla sua vita nell'Ovest, tutte cose che anche il pastore desiderava conoscere. Giunti ai piedi di Pendleton Hill, le loro strade si separarono e ciascuno per la sua direzione arrivò a casa. Il reverendo Ford quella sera nel suo studio rifletteva. Accanto a lui aveva alcune pagine di appunti, erano la traccia per il sermone della domenica. Davanti, invece, aveva un foglio completamente bianco. Qui avrebbe dovuto stendere il sermone in forma definitiva, quello da pronunciare davanti ai fedeli, al reverendo. Tuttavia, non interessava più quanto aveva scritto e non stava nemmeno pensando a quello che avrebbe dovuto scrivere. Il suo pensiero era invece fisso a quella piccola città lontana e al suo pastore, un uomo povero, malato, pieno di preoccupazioni e quasi solo, che passava ore sulla Bibbia per scoprire quante volte il suo maestro e signore lo aveva invitato a gioire. Dopo un po', con un lungo sospiro, il reverendo Ford smise di pensare alla piccola città lontana e tornò alla realtà, raddrizzò il foglio bianco che aveva davanti e incominciò a scrivere. Luca 11, 42, 43, 46. Ma poi, con un gesto di impazienza, lasciò cadere la penna. Non voleva impostare il suo sermone su quelle parole così dure, anche se tanto vere, dell'evangelista Luca. Cercava di trovare un'altra strada per toccare il cuore dei suoi parrocchiani. Più che sulla severità, voleva puntare sulla comprensione e misericordia di Dio per le debolezze umane. Ricordò la storia di quel padre che un giorno disse al figlio Tom, che aveva rifiutato a sua madre di andare a prenderle la legna: Tom, sono certo che non ti costerà molta fatica andare a prendere la legna per tua madre. Senza obiettare, Tom gli aveva obbedito. Come mai? Per il semplice fatto che il padre gli aveva dimostrato con molta naturalezza di avere fiducia in lui e da lui si aspettava quello che era giusto. Se invece gli avesse detto: Tom, ho sentito quello che hai risposto a tua madre oggi e mi vergogno di te, vai immediatamente a prendere quella legna, si può essere certi che Tom non avrebbe obbedito nemmeno a lui. Il reverendo Ford continuava a riflettere e si diceva: gli uomini hanno soprattutto bisogno di incoraggiamento, invece di insistere sulle loro colpe, perché non mettere in evidenza le loro qualità? Si dovrebbe cercare piuttosto di aiutarli ad abbandonare le cattive abitudini, a far emergere la parte migliore di loro, la loro più vera identità, così da portarli ad avere fiducia e a impegnarsi per superare le difficoltà. Un comportamento leale e disponibile è contagioso e può rivoluzionare un'intera esistenza. Se una persona si comporta con affabilità e altruismo con il suo vicino, si può star certi che non passerà molto tempo prima che il vicino si comporti allo stesso modo con lui. Per Ma se col suo vicino quella persona sarà scortese, senza comprensione e incline a criticarlo in qualunque cosa, riceverà da lui lo stesso trattamento. Quando si crede che dal mondo venga solo cattiveria, questa non si farà aspettare. È invece meglio far sempre capire al proprio figlio che ci si aspetta da lui il comportamento giusto e lui non ci deluderà. Il reverendo Ford aveva ormai le idee chiare riguardo a quello che avrebbe detto ai suoi fedeli e mise un profondo sospiro. Si accomodò meglio sulla sedia e, come sollevato da un peso, disse tra sé: Ora so che cosa dire alla mia gente. Con l'aiuto di Dio dirò ai miei vari Tom di sapere che saranno contenti di portare quella legna a casa. Farò in modo che si impegnino nell'aiuto reciproco e li farò sentire ricchi di quel tesoro inestimabile che è la gioia. Le parole di Luca li metteranno in guardia contro l'ipocrisia e la durezza di cuore, e tutte le esortazioni della Bibbia alla gioia dovranno essere il loro sostegno. Così il suo sermone sarebbe stato un invito a trarre quanto di meglio esiste in ogni uomo e donna, e avrebbe poi concluso con una delle 800 parole di gioia che gli aveva ricordato Pollyanna Whitey. Siate lieti nel Signore, siate lieti. Capitolo 23. L'incidente. Un giorno, su richiesta della signora Snow, Pollyanna andò dal dottor Chilton a chiedergli il nome di una medicina che la signora Snow aveva dimenticato. Era la prima volta che Pollyanna si trovava nell'ambulatorio del medico. Non sono mai venuta da lei prima di oggi, è qui che abita, vero? Domandò Pollyanna guardandosi intorno. Il dottore sorrise, ma con una certa malinconia in viso. Sì, è qui, disse mentre scriveva qualcosa su un ricettario, ma non è una vera casa. Pollyanna, ci sono soltanto delle stanze, non è una casa. Pollyanna fece segno di essere d'accordo, guardandolo con un'espressione che voleva essere di comprensione e di simpatia. Lo so, ci vogliono il cuore e la mente di una donna, o la presenza di un bambino, per fare una casa, disse. Come? Disse il dottore voltandosi verso di lei. Me l'ha detto il signor Pendleton, disse ancora Pollyanna. Del cuore e della mente di una donna o della presenza del bambino, intendevo. Perché non si cerca il cuore e la mente di una donna, dottor Chilton? Forse può prendere Jimmy Bean se il signor Pendleton non lo vorrà accogliere. Il dottor Chilton rise un po' impacciato. Ah, così, il signor Pendleton dice che ci vogliono il cuore e la mente di una donna per fare una casa, non è così? Disse un po' evasivo. Sì, anche lui dice che la sua non è una casa. Perché lei non si mette a cercare, dottor Chilton? Perché non cerco che cosa? Chiese il dottore di nuovo assorto dalle carte della sua scrivania. Il cuore e la mente di una donna. Oh, dimenticavo, disse Pollyanna arrossendo improvvisamente. Avrei dovuto dirglielo prima. Non era zia Polly che il signor Pendleton amava tanto tempo fa, e così non andremo a vivere con lui. Vede, le avevo confidato quella cosa, ma mi ero sbagliata. Spero che non l'abbia detto a nessuno, disse Pollyanna mostrando una certa apprensione. No, stai tranquilla, non l'ho detto a nessuno, Pollyanna, disse il dottore con un tono di voce un po' strana. Meno male, disse Pollyanna con sollievo. Vede, lei era stata l'unica persona a cui l'avevo confidato e mi era sembrato che il signor Pendleton fosse molto seccato quando gliel'ho detto. Ah, davvero? Disse il dottore e fece una piccola smorfia. Sì, e in più non voleva assolutamente che altri venissero a saperlo, dal momento che non era vero. Ma perché lei non si cerca il cuore e la mente di una donna, dottor Chilton? Ci fu un attimo di silenzio, quindi il dottore disse con un tono di voce piuttosto grave: Non è una cosa facile, non basta cercare, piccola mia. Pollyanna si fece pensierosa. Ma io sono convinta che lei ci riuscirebbe, disse la bambina con forza. Ah, grazie del complimento, disse il dottore ridendo, visibilmente compiaciuto. Poi, riprendendo l'espressione seria, disse: Temo che quelle tue amiche di qualche anno più anziane di te non siano proprio della tua opinione. Almeno non si sono dimostrate così ben disposte nei miei riguardi, osservò. Pollyanna sembrò riflettere, quindi i suoi occhi si spalancarono per la sorpresa di quanto le era balenato nella mente. Ma, dottor Chilton, non sarà perché anche lei è capitata la stessa cosa del signor Pendleton? Il dottore si alzò bruscamente dalla scrivania. Su, su, Pollyanna, non pensare a queste cose adesso, non preoccuparti dei problemi degli altri. Vai piuttosto dalla signora Snow. Ho scritto il nome della medicina e ho anche indicato come deve prenderla. C'è altro? Pollyanna scosse il capo. No, Dottore, grazie, disse piano mentre si avviava alla porta. Poi, dal piccolo ingresso, si voltò e con un'espressione rasserenata disse: Sono contenta comunque che non fosse stato il cuore e la mente della mamma che lei voleva. Arrivederci, dottor Chilton. L'incidente accadde l'ultimo giorno di ottobre. Pollyanna, di ritorno da scuola, svelta come al solito, attraversò la strada, certa che l'automobile che stava sopraggiungendo veloce fosse ancora sufficientemente lontana. Nessuno poté dire in seguito come era accaduto, nessuno che potesse spiegare perché era accaduto, né chi fosse il colpevole. Verso le 5, comunque, Pollyanna veniva trasportata ferita e priva di sensi nella stanza che tanto amava. Qui venne svestita e amorevolmente messa a letto da una zia Polly pallidissima e da una Nancy in lacrime, mentre il dottor Warren, avvisato per telefono, si stava precipitando con la sua auto e che correva almeno quanto quella che aveva investito Pollyanna. Avresti dovuto vedere la faccia della signorina Polly quando l'hanno portata qui, diceva Nancy a Tom senza smettere di piangere, dopo che il dottore era stato fatto entrare nella stanza immersa nel silenzio. Bastava appena guardarla per capire che non era il dovere a farle fare quella faccia. Se fosse stato soltanto per dovere, non avrebbe dato l'impressione di essere pronta a combattere con l'angelo della morte stesso. È molto grave? Chiese Tom con la voce che gli tremava. Non lo so, disse Nancy tra i singhiozzi. È distesa così immobile, pallida, che sembra davvero morta. Ma la signorina Polly ha detto che non è morta e poi dovrebbe saperlo perché non faceva altro che ascoltare per capire se respirava e se il cuore le batteva ancora. Ma dove è ferita? E che ne so io, che ne so? Piagnucolò Nancy. Ha un piccolo taglio in testa, ma è cosa da poco, almeno così ha detto la signorina Polly, però lei dice di temere che sia ferita infernamente. Tom la guardò perplesso. Vorrei dire internamente, Nancy, disse serio. Comunque è un'infernale disgrazia lo stesso, anche se non penso che la signorina Polly abbia usato quella parola. Ma non lo so, non lo so, mormorò Nancy, sempre in preda all'agitazione, mentre se ne andava dal giardino. Non ce la faccio più ad aspettare che il dottore esca da quella stanza. Preferirei dover fare le cose più faticose piuttosto che starmene lì ad aspettare. Concluse con voce lamentosa, torcendosi le mani, impotente. Anche dopo che il dottore se ne fu andato, tuttavia, non ci fu molto che Nancy potesse riferire a Tom. Non sembrava ci fossero fratture e il taglio era effettivamente una cosa da poco, ma il dottore, con un'espressione molto seria, aveva scosso la testa dicendo che soltanto con il tempo sarebbe stato possibile fare una diagnosi. Dopo che se ne fu andato, il volto della signorina Polly era più pallido e tirato di prima. La bambina non aveva ancora riacquistato conoscenza del tutto, anche se ora sembrava riposare normalmente. Era stata chiamata un'esperta infermiera che sarebbe venuta per la notte. Questo era tutto. Nancy si allontanò singhiozzando e tornò in cucina. Solo il pomeriggio successivo Pollyanna si svegliò cosciente e riconobbe la sua stanza. Ma zia Polly, che cosa c'è? Non è giorno. Perché sono ancora a letto? Domandò. Zia Polly, non riesco ad alzarmi, continuò a dire con un filo di voce, ricadendo sul guanciale dopo un inutile tentativo di sollevarsi. Non ancora, tesoro, non ancora, disse subito la zia in tono dolce ma fermo. Ma cos'è successo? Perché non posso alzarmi? La signorina Polly interrogò con occhi smarriti l'infermiera che si trovava dall'altra parte del letto, vicino alla finestra, e che Pollyanna non poteva vedere. La giovane donna fece un segno d'assenso. Può dirlo, accennarono appena le sue labbra. La signorina Polly si schiarì la gola, cercando di inghiottire il nodo che le impediva di parlare. Sei stata ferita, tesoro, da un'automobile, ma non pensarci adesso. Tua zia desidera che riposi e che tu dorma. Ferita? Ah, sì, correvo. Gli occhi di Pollyanna erano senza espressione. Sollevò una mano per tastarsi la fronte. Ah, è fasciata e fa male. Sì, tesoro, ma non pensarci ora. Cerca di riposare. Zia Polly, mi sento così strana e poco bene. Ho le gambe così. È che non le sento affatto. La signorina Polly, implorando con gli occhi l'infermiera, si allontanò dal letto mentre la donna si avvicinava all'ammalata. Adesso devi lasciar parlare un po' anche me. disse con voce tranquilla. Penso sia ora che facciamo conoscenza e che io mi presenti. Mi chiamo Hunt e sono venuta ad aiutare tua zia a curarti. E la prima cosa che ti chiedo di fare è prendere queste due pastiglie bianche per farmi piacere. Gli occhi di Pollyanna mostrarono un netto rifiuto. Ma io non ho bisogno di cure. Voglio dire, non per tanto tempo. Voglio alzarmi. Lo sa che devo andare a scuola. Posso andarci domani? Dalla finestra dove si trovava la signorina Polly si udì un piccolo grido soffocato. Domani? Disse l'infermiera con un sorriso. Beh, può darsi che io non ti dia il permesso di uscire così presto, Pollyanna. Intanto, sii buona. Manda giù queste pastiglie, vedrai che ti faranno bene. E va bene, disse Pollyanna, non del tutto convinta. Ma devo senz'altro andare a scuola dopodomani. Mi devono interrogare, capisce? La bambina parlò ancora per qualche minuto. Parlò della scuola, dell'automobile e di quanto le facesse male la testa. Poi la voce andò via via, affievolendosi sotto l'effetto del farmaco che l'infermiera l'aveva convinta a prendere.